Prima tempo mi attaccava con l'ogni a capo come una pestata. Prima tempo mi attaccava con l'ogni a capo come una pestata. Ogni asserraglia fatta che rientra come una rete buttata a mare strascicando ogni malata. La mia cortiella e feste mi pensava mo fa sotto sta ferraglia e se niente. Solo per pisciarmi in fronte, niente, niente, niente, niente, niente. Strisciava innanzi a rete, innanzi a rete, innanzi a rete, innanzi a rete. Strisciava innanzi a rete, strisciando a sentimento, attorno, attorno, rintessenga che era fatta, sicura e muffa sotto all'ogni, a sta carogna. Capille scorze che passano che mi scippava colla. Mi aveva mettere sotto l'acqua, prima mi pareva pure che me l'era fatta. Ma poi quando fuoco s'acquitava, rimane visto padrona la capa. Zitto, zitto, scava, tagli, pogna, su casa non capisce e caga. Rinda e ferita, rinda e senga, cama la morte sfruguliano, centrilla la cervella. Parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. Strisciava innanzi a strisciando a sentimento, attorno, attorno, rintessinga che era fatta, sicura e muffa sotto all'ogni, a sta carogna. Capì le scorze che passano, che mi scippava colla. Mi aveva mettere sotto all'acqua, prima mi pareva pure che me l'era fatta. Ma poi quando fuoco s'acquitava, rimane visto padrona la capa. Zitto, zitto, scava, tagli. Su casa non capisce caga, rinde e ferite, rinde e senga, cama la morte sfruguliano, centrilla la cervella. Zitto, zitto, scava, taglia, pogna, su casa non capisce caga, rinde e ferite, rinde e senga, cama la morte sfruguliano, centrilla la cervella. Paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla. E parrucchie, paccerilla, ogni parrucchia una capa e spilla.